bambina, è un nuovo giorno ormai, ma tu come prima, tu non ti fermi mai per la tua strada, senza alcuna paura.